Cari amiche, cari amici, benvenuti a Brussellando, Radio Alma, martedì sera, Maridì ai microfoni, vi augura una splendida serata in nostra compagnia. Avrete potuto ascoltare un inizio un po' inusuale, d'altronde è periodo di quaresima per coloro i quali celebrano ancora determinate festività cattoliche, e quindi siamo contenti perché questa sera, in linea con la puntata della settimana scorsa, continuiamo a parlare di musica. Cambiamo genere, però la protagonista questa sera per il nostro primo ospite è proprio la musica. Prima di introdurlo, però, saluto come al solito il nostro Daniemme Buonasera a tutti. Eccoci, e il nostro Georges Laurent. eccoci, cari amici, eccoci. Sono molto felice di questa musica iniziale e ora spiegheremo perché. E sono tante le chicche che ci aspettano, quindi veramente restate in nostra compagnia. Probabilmente, come spesso accade a quest'ora, in tanti saranno nella propria automobile ad ascoltarci, quindi buon rientro, un rientro sereno verso le vostre rispettive abitazioni. Prima di aprire la serata, però, e poiché so che molto spesso capita di farci veramente trascinare dalle nostre emozioni, volevo ricordarvi che questa sera ha inizio il festival del film fantastico, il Brussels International Fantastic Film Festival. Al Bosar, ritorna al Bosar dopo tanto tempo. Venerdì alle ore 18 sarà a Bruxelles Giancarlo Giannini. E quindi se potete, se avete l'occasione, rendetevi proprio al Bosar per poter vedere una delle sue ultime, uno dei suoi ultimi capolavori. Il Film Festival va in onda fino al prossimo 20 aprile, quindi praticamente 10 giorni dove potete incontrare non solo Giancarlo Giannini, ma quanti amano questo genere: Luc Besson, Peter Jackson, Victoria Abril, David Cronenberg, Barbara Steele, Terry Gilliam o ancora Judy Law. Immaginate, io sarei veramente felice di poterla incontrare. Quindi vi ricordo il BIF, Brussels International Fantastic Film Festival, al Bosar dall'8 al 20 aprile, e potete avere maggiori informazioni ricercandolo proprio in internet, BIF, mi raccomando, con 3 F, .net. E allora passiamo, insomma, a scoprire l'arcano di questa musica iniziale. E lo svegliamo in parte subito perché ne svegliamo l'autore. Qui con noi, finalmente, siamo molto felici. Io personalmente sono estremamente felice di avere qui con noi Marco Rosano. Ma Buonasera, buonasera a tutti. grazie Marco, benvenuto a Brussellando. Grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato, perché è un grandissimo piacere averti qui, perché insomma, magari non molti lo conoscono, perché è molto conosciuto in alcuni ambienti, ma non al cosiddetto grande pubblico, se non un pubblico che un po' conosce la musica, però quelli che amano un po' di musica, una musica fatta bene, sicuramente ne hanno sentito parlare e addirittura lo apprezzano. Allora, Pianista, organista, tastierista, compositore, arrangiatore e produttore. Quindi Marco veramente si distingue per la sua versatilità e per la sua ampiezza delle sue vedute musicali, che lo portano incessantemente a cavallo tra la musica classica e moderna. assolutamente, tra la musica classica e moderna, e che comincia presto. E Sì. infatti vorrei sapere, quando comincia la tua carriera? Come comincia la tua carriera? A 18 anni ho fatto il mio primo lavoro pagato, tra virgolette, e ho composto una musica per uno spettacolo di teatro per Franco Passatore a Torino. Io sono torinese, abitavo lì, e quindi 18 anni, adesso sono 49, per cui fa 31 anni di lavoro. Ah, però 31 anni di lavoro. Beh, io leggo semplicemente, ho cominciato qui, trovo che nell'87 faceva concerti di musica leggera, che dalle feste paesane ai riflettori Domenica Inn. Bei ricordi, sì. Perché E come funziona il passare dalle feste paesane a Domenica Inn? Qual è ogni la anno era una sensazione? tournée diversa, per cui ci sono stati gli anni con, diciamo, le piccole star che andavano nei paesini in Italia del Sud. Ho dei ricordi fantastici di questi posti in cui chi arrivava lì a suonare, anche se eravamo dei piccoli musicisti di serie Z, però per la gente del paese, visto che era il giorno di festa, eravamo un po' le star in ogni caso, quindi venivamo accolti con dei pranzi incredibili, le pro loco, dei prodotti tipici. Ho dei ricordi veramente di ospitalità, di simpatia molto forti. Poi chiaramente Domenica Inn, perché subito dopo ho lavorato con Patty Pravo, e allora siamo stati in Cina a fare il suo album 2 volte, 1 mese ogni volta, e al ritorno c'era tutta la promozione, per cui mi venne questa idea di fare una specie di spettacolino live a Domenica Inn con quattro pianoforti a coda messi un po' a quadrifoglio bianchi, anche una bella immagine tra l'altro, per cui fui un po' l'artefice di questo momento televisivo. Io non sono un personaggio particolarmente che ama l'esposizione pubblica, sto bene chiuso nel mio studietto in campagna, però allora ero giovane, quindi sono anche emozioni, esperienze, insomma, va tutto bene. Solo magari una cosa, tra l'altro nel 1994 eri con Fulvio Maras, che scrive, arrange e produce l'album Ideogrammi, sì. E se le informazioni raccolte sono corrette, a vedervi vi erano almeno un centinaio di milioni di telespettatori e Marco era al pianoforte. Questo è un ricordo, come sai queste informazioni? Cerchiamo, ormai la nostra private vita privata non esiste. Complimenti. Tutto rintracciato. Ho studiato il caso, sì, anche questa sera. Perché sempre nell'ambito della promozione, diciamo, mi chiesero di organizzare un concerto all'ambasciata italiana a Pechino con Patti Pravo, con un gruppo di musicisti cinesi, per cui andai nelle cantine a sentire le sale prove di questi giovani musicisti, non parlavamo nessuna lingua in comune, quindi a gesti e a disegni, però avevo comunque le registrazioni, per cui in qualche modo sentivamo le musiche originali. Quindi dopo una settimana di prove siamo sbarcati all'ambasciata con tanto di luci, service, la televisione in diretta cinese, quindi con un pubblico molto grande, e lì ci fu il momento in cui feci Col tempo con Nicoletta, con Patti Pravo, io e lei, io al pianoforte, lei che cantava, io una paura incredibile, lei anche, perché tra l'altro lei anche è una abbastanza timida, non si direbbe, ma lo è, però andò tutto bene, fu sicuramente uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Lo posso immaginare. E l'incontro con la musica o il modo di far musica in Cina, come lo ricordi? La Cina, quando ci... diciamo nel 1994, era sicuramente molto diversa da adesso, per cui veniva anche percepita e vista in un modo diverso, era molto più lontana in qualche modo rispetto a come oggi la possiamo percepire. Io ho dei ricordi molto belli perché ci sono moltissimi musicisti di altissimo livello in Cina. Il fatto di arrivare in qualche modo con una personalità italiana molto conosciuta ci facilitava tutti i contatti, gli incontri, per cui ebbi modo di conoscere dei solisti eccezionali che suonarono anche nel disco. Quindi una cultura molto diversa dalla nostra, ma comunque di un livello altissimo. E questo è anche una delle cose che mi fece venire voglia di riproporre in vari dei miei progetti, diciamo, questa miscela di cose, di mondi musicali diversi, che è un po' uno dei miei punti forti, quello invece di fare sempre la stessa cosa, cercare sempre, tra virgolette, una ricetta come in cucina, leggermente diversa, insomma, ricercare in qualche modo, piuttosto che riproporre. Beh, allora a questo punto siamo arrivati al momento topico e dobbiamo svelare che cos'era la musica iniziale che abbiamo ascoltato. Era una pubblicità per una nota marca di pastiglie per il mal di gola. La cosa divertente è che in questo caso non c'era uno speaker, non c'era una voce che parlava, che spiegava, per cui la musica doveva raccontare tutta la storia. E le immagini erano di questa bella ragazza con il mal di gola, con una specie di collare con delle punte che simboleggiava il suo mal di gola, che poi prendendo la pastiglia spariva, quindi spariva il mal di gola, spariva il collare, per cui la musica deve partire, quindi il gioco che parte dalla musica contemporanea con gli armonici, anche qui un po', diciamo, tra virgolette, prendendo poi giro la musica contemporanea, e poi si trasforma in questo valzer molto più allegro, molto più leggero. Tra l'altro hai composto tante colonne sonore per spot radiofonici e televisivi. Non possiamo dire le marche probabilmente perché potremmo risultare, però insomma complimenti, perché la lista è veramente interessante. Tra l'altro cambi facilmente settore, quindi sì. Come riesci a coniugare poi queste diverse esigenze di mercato con la musica? Come riesci a tradurle queste peculiarità? Ma alla fine scrivere musica è un mestiere come un altro, se guardiamo tutti i veri compositori, tra virgolette, del passato, anche Bach, la stessa musica si suonava la domenica a messa e poi la riproponeva con un altro testo per il compleanno dell'imperatore, per cui diciamo scrivere musica è scrivere musica, non è che l'idraulico fa i bagni e non fa le cucine. Un compositore deve saper fare tutto, poi quello che non sai fare ti fai aiutare, studi, impari, in qualche modo si fa, diciamo, io dico mai no, questa è la regola di massima, io dico sempre sì, poi qualcosa mi invento. Beh, in effetti nel 2007 è anche prodotto Analog Bach, che è una sintesi di musica elettronica antica. Allora, sintesi elettronica di musica antica. Come funziona questa cosa? Sintesi elettronica, musica antica. Analog Bach è un omaggio a Wendy Carlos, che è stato un pioniere della musica elettronica e classica. Nel 1969 Wendy Carlos fece un album Switched on Bach, che vendette più di 1 milione di copie, a tutt'oggi il disco di musica classica più venduto della storia della musica classica, diciamo, facendo solo con un sintetizzatore, con un Moog modulare, quindi senza memorie, senza MIDI, senza computer, suonando, se sbagliava ricominciava, risuonò completamente delle musiche di Bach esclusivamente in elettronica, e lo fece talmente bene che da allora nessun altro ci ha più provato. Quindi io, diciamo, con grande umiltà ho cercato in qualche modo di fare lo stesso lavoro con delle musiche differenti che a me piacciono molto, risuonandole con un unico sintetizzatore, però con l'ausilio dell'elettronica, del computer, non come all'epoca, insomma, senza essere masochisti. Però, diciamo, l'omaggio è un po' a questo mondo in cui in qualche modo la musica classica, quando viene suonata elettronicamente, ci permette di percepire lo spartito in un altro modo. Cioè, mi spiego, quando noi sentiamo Bach suonato dall'orchestra, è stato scritto in modo tale per cui gli strumenti si miscelano uno con l'altro e facciamo fatica a seguire le linee del contrappunto della scrittura musicale. L'elettronica, essendo molto più precisa in qualche modo, si mischiano di meno le parti, quindi un appassionato di musica classica, sentendo la musica classica suonata al sintetizzatore, vede lo spartito molto di più che non sentendolo. E poi chiaramente gli appassionati di sintetizzatore, insomma, ognuno, come dire, ha dei trip personali, questa cosa attira molto, e da tanti anni che ci lavoro. Parlando del Moog, mi veniva in mente il primo italiano che ha fatto un po' di successo usando il Moog, che era il Guardiano del Faro. Fantastico. Meraviglioso. Sono cresciuto, anche queste sono influenze, certo. Assolutamente. Beh, allora, insomma, avete già capito che personaggio abbiamo di fronte. Parliamo di Patti Pravo. E non abbiamo ancora detto tutto. No, abbiamo cominciato, stiamo cominciando, sono appena le 8:15, abbiamo appena cominciato. E voi avete già sentito parlare di sintetizzatori elettronici, di Moog, di esperienze varie, di concerti, di centinaia di milioni di spettatori, di ascoltatori. Beh, forse è venuto il momento allora di chiedere a Marco e di farci ascoltare un pezzo di Marco. Sì, in regia mi dicono il primo, sì, certo. E poi chiediamo a Marco cosa nasce da questa musica e come è funzionato. Sentiamo la musica. Beh, allora, riusciti a scegliere, scusa se ti... l'unica musica che ancora, diciamo, è inedita, l'avevo portata un po' come sorpresa, quindi sarà difficile spiegare di un contesto, ma ti lascio continuare, poi se vuoi ti spiego. No, è una musica invece bellissima, io che sono stato al Volo dell'Angelo dalle parti di Matera, e vi consiglio a tutti di andare a provare il Volo dell'Angelo. Beh, portatevi questo come colonna sonora. E beh, è un po' difficile moltiplicato al 100%, no, con un iPod. Email, ve la spedisco gratis, non ci sono problemi. Con un iPod, so, così la pubblichiamo, proviamo questo inedito, un bellissimo inedito. Ti ringraziamo infinitamente, c'è Brussellando che riserva ogni volta delle sorprese. Questa è la sorpresa delle sorprese. Da dove è nata questa musica? Come è nata? Questa è una musica in cui avevo voglia di creare un'atmosfera usando pochissimi elementi. In questo caso ce ne sono tre: c'è un piano elettrico, il Fender Rhodes, c'è un clavinet che fa il mandolino simulato e c'è un Solina, che è un'altra tastiera elettronica sempre degli anni 70, che fa il violino in alto, fa una nota sempre la stessa di violino. Quindi era proprio l'estrema sintesi il gioco che volevo giocare, come con tre strumenti che fanno pochissime cose. Questa è la scommessa, non so se ci sono riuscito, ma diciamo, è possibile creare un'atmosfera, un'emozione mettendoci pochissimo, che poi più invecchio e più diventa uno dei tratti, diciamo, distintivi della mia scrittura, quello di usare pochissime note, perché quando si fa una musica con tante note, una più una meno, voglio dire, quando si fa una musica con pochissime note, ogni musica diventa fondamentale, diventa importantissima, è come se ci fosse un microscopio che la ingrandisce in maniera enorme, per cui è molto più difficile fare una musica semplice con pochissime note rispetto a una musica in cui ce ne sono 3.000, una più, una meno. Quindi sono delle scommesse personali, delle ricerche, dei giochi, ma sempre andando all'essenza, alla sintesi, in qualche modo alla profondità, perché poi penso che l'essere umano sia qualcosa di semplice in generale, soprattutto da un punto di vista emotivo. Almeno io personalmente le emozioni più profonde le provo davanti a delle cose semplici, che sia un tramonto, che sia un giro con la Vespa, non lo so, vuol dire, comunque in ogni caso non ho bisogno di cose complicate per emozionarmi, per cui anche nelle musiche cerco il più possibile di ridurre, buttare via, tagliare. Questo è bellissimo, è la semplicità, il genio sta nella semplicità, scusate se lo dico, ma è quello che in questo credo profondamente. In tanti lo sostengono anche. No, è una cosa bellissima, perché quando si è giovani si deve sperimentare, quindi sono molte note e molte cose. Poi mano a mano si comincia a capire, sì, a pulire. La vita è una pulizia, anche il teatro, per rendere veramente il teatro bisogna svuotare, non riempire, svuotare. Teatro da cui ho imparato molto. Io ho lavorato molto sul teatro italiano. Ecco, è così, infatti, ecco, ripartiamo. Volevo proprio fare questo accenno per partire verso l'andazzo, o meglio, la parte teatrale. Marco Rosano e il teatro. Sì. Se avete 2 o 3 ore di tempo, signori, alla fine ci riusciamo. Non esageriamo. Guarda, io ho dei ricordi belli e brutti, perché poi devo dire, ho lavorato con personaggi di tutti i tipi, per parlare degli estremi, insomma, da Carmelo Bene a Carlo Quartucci e Carla Tatò, posso parlare in maniera, diciamo, artisticamente sono persone di un livello incredibile. Umanamente, Carmelo Bene non era una persona facile, meglio non entrare nei dettagli, mentre Carla Tatò e Carlo Quartucci sono delle persone splendide che mi hanno sempre aiutato, per cui ho lavorato per degli anni. Loro gestivano un teatro molto bello, piccolino, a Erice, in Sicilia, un posto meraviglioso. Invito chiunque, io sono piemontese, quindi non difendo la mia patria, ma andate ad Erice, è uno dei posti più belli del pianeta. Personalmente penso sia il centro del mondo. Comunque, io ci andrò quest'estate in Vespa, se qualcuno vuole venire, ci organizziamo. Dipende da dove parti. Da Bruxelles. Con la Vespa vecchia, con le marce, quelle vere. Se qualcuno, contattate la radio, ci organizziamo. Per dire che avevano questo teatrino, perché era veramente piccolo, a Erice. Erice, per chi non lo sapesse, è una città di 400 anime, in cui, per una serie di ragioni storiche, vennero costruite decine di chiese. Si parla di 40 chiese in un posto dove ci sono 400 persone. Per cui col tempo queste chiese sono diventate una al supermercato, l'altra alla banca e una è diventata al teatro. Per cui c'è anche una sacralità. C'è sempre una sacralità nel teatro, ma là ce n'era ancora di più perché eravamo in una chiesa. Quindi ho passato dei mesi della mia vita in questo posto meraviglioso, scrivendo musiche per questi spettacoli. All'epoca Carlo Quartucci e Carla Tatò invitavano artisti internazionali, da Kunellis, insomma personalità molto famose, che venivano ad Erice per fare dei spettacoli in questo posto sperduto, piccolissimo, sconosciuto. È stata una grande fortuna essere lì ospite di queste persone meravigliose. Quindi devo dire, il teatro per me, forse sono, è difficile dirlo perché ne ho visti di tutti i colori, ma tra i momenti più belli della mia vita li ho passati sicuramente grazie al teatro. Il teatro è ampio, quindi dall'alto al basso copre tutta la gamma. Tu parlavi del teatro, esatto, il teatro insegna anche proprio a pulire, a purificare, a ridurre, a scendere in profondità. Vedere lavorare un grande regista, dei grandi attori, anche musicalmente è una scuola incredibile, si impara tantissimo. Io devo solo ringraziare, insomma. Qualche legame con Settimo Torinese? No. No. Purtroppo non ho avuto modo. Nessun modo, vabbè... Anche lì c'è una scuola di teatro, per chi non conoscesse, sì. Non andiamo oltre, ma... Io ho una curiosità invece, così magari prendiamo un attimo una pausa da tutta la serietà che... Come arrivi a Bruxelles? Come l'amore, giungi? L'amore. Ah, ecco, l'avevo immaginato, ma... Mia moglie è francese. Quando la conobbi io vivevo a Roma, lei viveva a Bruxelles. E, come dire, dei due sicuramente quello che poteva muoversi con più facilità ero io. Devo anche dire che dopo 7 anni di Roma, in qualche modo, avevo voglia di prendere non una boccata d'aria. Una scelta troppo difficile. Roma, città che adoro, che amo molto, in cui vado spesso, perché ho molti amici, perché mi piace proprio tantissimo essere lì. Però vivere la quotidianità a Roma non è facile. Poi certo la scelta del Belgio non è una scelta, è una non scelta, perché ci sono venuti, non sapevo neanche dove fosse il Belgio all'epoca, pensavo che fosse tipo vicino alla Finlandia, ma poi ho capito dove si trova e devo dire sono molto contento. Certo il clima è quello che è, anche se quest'anno non ci lamentiamo, però la gente è fantastica. Io devo dire, pensare di vivere in un posto che non è l'Italia, come emigrante, come diciamo colui che si muove, penso che il Belgio sia uno dei posti in cui come italiano si viene accolti meglio. Non riesco a immaginare, e ho viaggiato molto, un altro paese in cui si sia trattati in qualche modo, in questo modo molto aperto, molto ospitale, molto gentile. I belgi sono persone molto gentili. La gentilezza spesso viene sottovalutata come qualità, invece secondo me è molto importante. E i belgi sono persone gentili. Poi certo dappertutto c'è il bene e il male, però per carità. Io sono contento di essere qui. La cosa strana che mi piace ricordarlo proprio sul Belgio, mi piace ricordare il fatto che secondo me è proprio la cultura belga che è fatta in un modo tale da non sovrastare nessun'altra cultura e né farsi sovrastare da nessun'altra cultura. Cioè qui si arriva e uno si sente in qualche modo a casa, anche se parla un'altra lingua. Io personalmente non riesco a... a capire perché. Ci sto pensando da un po' di anni, ma è proprio è strana la fortuna. Io vorrei solo aggiungere una cosa in merito: penso che anche in questo caso il ruolo degli italiani sia stato fondamentale in questo processo di ouverture, di apertura della cultura belga, perché qualche anno fa le cose non erano proprio così. Vabbè, certo, no. Storicamente sono stati dei momenti cui, quindi certo. No, oggi così. Nel nostro lavoro di integrazione, nel nostro modo di integrarci, che siamo riusciti a fare anche queste conquiste di tipo sociale. Io avevo ancora una curiosità, George parlava del teatro, invece vorrei sapere qualcosa in più della tua esperienza sui radiodrammi, già che siamo in radio. Oh, bambino, non ti scappa niente. I radiodrammi, qui vorrei citare un caro amico, Paolo Modugno, che è a Roma, con cui ho vissuto molte avventure musicali e anche di amicizia. E lui in qualche modo mi ha sempre coinvolto in queste avventure radiofoniche, visto che a Roma è un po' anche un giro, ognuno ha i suoi giri di amici. Lui aveva una serie di amici, tra cui Marco Solari ed altri, che lavoravano molto sul lato, diciamo, radiofonico, la traduzione, il modo di portare in radio un testo che sia un libro, che sia un racconto, che sia teatro. E quindi anche forte della mia esperienza teatrale, insomma, in qualche modo non è mai stato un grosso problema, però devo dire c'è un'emozione forte nella radio. Io personalmente non guardo la televisione, penso che meno la si vede e meglio è in assoluto, mentre la radio in qualche modo penso che più la si veda, più ci si avvicina in qualche modo a questo sogno, a questa immagine. Il problema della televisione, come di tutti i luoghi in cui le immagini ci vengono già proposte, è che noi non possiamo creare le nostre immagini. Mentre se noi sentiamo solo con le orecchie, quando vedi i miei figli che sono dipendenti da queste immagini, penso che sia un peccato, perché non possono creare le loro proprie immagini interiori. Io ogni tanto mi succede, mi siedo davanti alle mie casse, nel mio studio, sento un disco, chiudo gli occhi e vedo un film. Ma se c'è già qualcuno che ha scelto il film per me, io questo film non lo potrò mai vedere. Quindi viva la radio! Insomma, abbiamo un seguace di Groucho Marx, che diceva che la radio e la TV è estremamente educativa, perché ogni volta che qualcuno l'accende, lui va in un'altra stanza e legge un libro. Vediamo che immagini ci suscita le musiche di Marco. E qui c'è una sorpresa, signori. Voi avete sentito questa bellissima musica con questa bellissima voce. Chi è la cantante? E la cantante è Isabelle Arnal, mia moglie. Ecco. Ho sempre, se potuto, cercato di coinvolgere amici, familiari, anche i miei figli, poverini, li costringo a cantare, a suonare, insomma. In qualche modo penso che sia bella la dimensione musicale condivisa, soprattutto con le persone che ami. Poi a volte tocca anche condividerla con gente che non ami, però diciamo, se si può scegliere. Beh, certo. Quindi questo progetto è stato un bel disco, è stato, e qui mi dai l'occasione di parlare delle voglie. Io avevo voglia di fare un disco pop, però pop a modo mio, un po' un easy listening di qualità. Io penso che negli anni 60 e 70 c'era veramente una dignità della musica leggera, cosa che oggi faccio più fatica a trovare accendendo la radio. In qualche modo negli anni 60 e 70, ad esempio in Italia c'erano i grandi compositori, da Morricone, chiunque era al servizio di un prodotto artistico che poi doveva essere popolare, quindi pop. Mm-hmm. Ma questo non voleva dire meno qualità di una musica fatta per un film o per un altro contesto. Qui diciamo anche ancora una volta nel mio piccolo, con il massimo di umiltà, però ho cercato di riproporre quest'idea ancora della semplicità, della musica facile da ascoltare, però con una qualità di arrangiamenti, di musicisti, di studi. Bisogna dire che c'era anche dietro una grande casa discografica che in qualche modo ha prodotto e ha pagato tutto spinto. Questo, per cui sì, è stata anche una bella avventura produrre un disco così importante, anche con l'aiuto di Alex Calier di Uberphonic, quindi che ha missato e prodotto vari brani. Insomma, è stata una bella avventura in Belgio. Il Belgio mi ha portato molte belle avventure musicali e umane. Allora, George. Allora, siamo curiosi, perché purtroppo, ahimè, il tempo è tiranno, di sapere un po' di più della tua collaborazione con Andreas Scholl. Aspetta, voglio partire da lì, per poi arrivare a quello che avete fatto insieme, a quello a cui state già lavorando. Sì, Andreas Scholl è un cantante tedesco, è un controtenore, quindi è un uomo che canta negli acuti. Quando parla ha una voce normale. Quelli che una volta erano i castrati all'epoca, lui non lo era, ha dei figli, tutto normale. Però diciamo, parliamo di Farinelli allora. Esatto, come Farinelli. Quindi, conoscendolo da un punto di vista umano, amicizia, lui è una star internazionale, io compositore, a un certo punto mi ha detto: perché non scrivi qualcosa per me? Perché non si vede? E andiamo. E come vi siete incontrati? Dove vi siete incontrati? Le nostre mogli, all'epoca la sua moglie, poi ex, diventata ex, erano amiche. Per cui una cena così, abbiamo cominciato subito a parlare di microfoni, preamplificatori, le mogli annoiatissime che ci hanno spedito subito sul balcone. Poi siamo partita subito questa amicizia tecnologico-musicale che dura tuttora, dopo 20 anni, insomma. E questa amicizia ha prodotto una cosa bellissima nel 2010, che ha visto la luce nel 2010, che è lo Stabat Mater. Sì, 2008. 2008, ho sbagliato io. Sì. Eh sì, infatti. Ho sbagliato 2008. A Sydney, sì. Chiedo venia. È seguito in 3 occasioni. Sì, Sydney è stato un po' uno dei momenti di gloria, perché siamo arrivati là invitati da questa orchestra fantastica di solisti, un'orchestra barocca tra le migliori sul pianeta. Quindi un po' i VIP, io non sono abituato a fare i VIP, ma veramente arrivare in Australia ci si sente così, perché qui da noi forse siamo più viziati o forse siamo più stanchi, ma in Australia c'è ancora questa voglia di fare, quindi sono contenti se qualcuno arriva lì, la prima internazionale di un'opera musicale, un musicista europeo che viene in Australia, cioè sono contenti. Qui in Europa se fai una musica in genere i critici, voglio dire, non gliene potrebbe fregare, cioè, per dire. Ma comunque, diciamo, in ogni caso io ho potuto vivere questo momento di gloria, 5 repliche in un teatro di 1500 posti sold out, e le ho viste tutte e 5 più le prove, quindi grande soddisfazione, grande emozione essere lì nel pubblico con un'orchestra, un cantante così che esegue. La cosa che forse mi ha toccato di più è stato vedere della gente che piangeva alla fine dello Stabat Mater. C'erano delle persone che piangevano, e visto che tutto il lavoro, tutta la scrittura dello Stabat Mater è stata fatta proprio in funzione di una ricerca dell'emozione profonda, quindi ancora una volta con una semplicità assoluta, pochissime note, vedere che funzionava in qualche modo da un punto di vista emozionale, al di là del successo VIP, chi se ne frega, ma le persone reagivano fisicamente, emotivamente, questo mi ha colpito tantissimo. Bellissimo. Bene, sì. Daniele, regia scalpita, quindi forse vedo che scalpita, però volevo solo dire, ne abbiamo parlato poco dello Stabat Mater, che è uno dei punti più alti di Marco Rosano, perché questo lo potete trovare dovunque. Abbiamo parlato della parte così più nascosta, quella che si vede di meno di Marco Rosano, però Marco Rosano non aveva solo Stabat Mater, ma aveva in progetto una cosa che è ancora in costruzione, e noi vi facciamo sentire un pezzo. E beh, insomma, la voce bellissima di Andrea Scholl, una voce bianca, avete sentito la pienezza di questa voce. Chissà, perché come stavamo commentando, che peccato, non ho mai sentito quella di Farinelli, chissà come cantava, ma è una star dell'epoca che purtroppo visse gli ultimi suoi 20 anni in solitudine. E non dimentichiamo di dire, ringraziamo anche Marco, che questo è veramente un regalo agli ascoltatori di Bruxellando, perché il Requiem è tuttora in lavorazione. Così. Quindi veramente avete ascoltato una chicca che per il momento... No, questo brano si può sentire su internet, però diciamo, in ogni caso, l'opera completa non è ancora uscita. Ecco. E uscirà? Adesso facciamo la domanda di fine. Uscirà? Potrebbe uscire? È una bella domanda. Io sono un po', non voglio dire fatalista, perché è una parola che ha vari sensi, però credo molto nel fatto che le cose, se devono accadere, accadono. Se no, no. Quindi non è che spingo mai in maniera eccessiva, non l'ho mai fatto nella mia vita. Aspetto che ci siano i momenti e le condizioni giuste per cui una cosa accada. Se non accade, vuol dire che non deve accadere. Dio ha deciso, l'universo, la vita ha deciso che non deve accadere. Se accade, invece, accadrà. E vabbè, allora io vorrei chiudere con una piccola, però prima che tu chiuda, Giorgio, io devo dire ancora un'altra cosa, così sveliamo un po' anche i pregi di Marco. Hai paura. Nel 2012 hai vinto anche il premio come piemontese del mondo. Opla. Quindi l'occasione ci è gradita per salutare anche la presidentessa dei presidenti dei piemontesi del mondo qui, Anna, in Belgio, Anna Gibello, Anna che Gibello, è stata anche, sì, il nostro trade union questa sera, ci ha permesso di incontrarci, quindi i nostri migliori saluti ad Anna e anche Anna, a tutti i membri dell'associazione. E che se ne... l'attività di Marco è così varia che arriva persino a fare degli scherzetti a dei politici. Oh, abbiamo... cioè, addirittura delle canzoni contro dei politici. Ma come viene questa idea? Tu parli del brano che si intitola Il Cavaliere Nero? Per esempio. Sì, ma Il Cavaliere Nero è un po' uno sfogo, perché... andando in Italia 2 o 3 volte l'anno negli anni, diciamo, negli ultimi 20 anni, ogni volta tornando in Belgio con questa specie di senso un po' di depressione, non so, di vedere il proprio paese che sta scendendo lentamente verso un baratro. A un certo punto, senza dover incolpare nessuno, perché a questo punto abbiamo visto che destra e sinistra non si sa più chi votare, ma diciamo, in ogni caso, all'epoca il responsabile, il maggior artefice e responsabile della politica italiana era Silvio Berlusconi. Quindi sì, ho espresso la mia opinione e in questo brano si può trovare su internet, così si può capire cosa penso. In ogni caso i posteri non potranno dire che non si sapeva quello che io pensavo. Bellissimo, è un grande piacere, ormai il tempo è scaduto. Il tempo è tiranno. Però io sono stato estremamente felice e ti ringrazio infinitamente. Grazie a voi. Perché è stata una bellissima intervista, hai condiviso con noi le tue emozioni, la tua vita, i tuoi pensieri, con coraggio, con determinazione e soprattutto con estrema semplicità, che è quello che dà la forza a tutto. Io vorrei chiudere qui. Però Marco, magari con una sola parola, un messaggio ai nostri ascoltatori, di saluto a coloro i quali si stanno ascoltando? Sì, io nella mia vita la cosa che mi ha spinto di più, il motore della mia esistenza è sempre stata la voglia, non la volontà. Perché la voglia viene dal cuore, la volontà viene dal cervello. Quindi se riuscite a identificare le vostre voglie e poi a fare in modo che diventino il motore della vostra esistenza, penso che vivrete una vita di felicità. Bellissimo. Un messaggio bellissimo. Noi vi lasciamo con una chicca che è la nostra sigla di chiusura dell'intervista con Marco e ce la sentiamo. Cari amici, eccoci qui, Mari D, George Laurent, Dani M in regia negli studi questa sera. Ritornate al nostro viaggio nella musica di Marco, bellissimo. Nelle musiche di Marco, perché veramente abbiamo attraversato più dimensioni musicali e non. E veniamo al secondo ospite di questa sera. Siamo ugualmente contenti di averlo qui con noi, perché è molto noto anche in Italia. E stiamo parlando di Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, scrittore. Dal 2004 è direttore scientifico della Scuola per Genitori. Tra i suoi libri, tutti pubblicati con Einaudi, Un'anima divisa, L'autorità perduta, Elogio dell'amicizia, Impara ad essere felice. Questa sera però è con noi per la sua ultima fatica letteraria, quindi abbandona un po' quello che è il campo a lui preferito per entrare proprio in un romanzo, Non mi chiedere di più, pubblicato da Barbera Editore. Quindi l'occasione mi è gradita per salutare anche Simone Marchi, che ci ha permesso di incontrare la scrittura di Paolo. Il romanzo è stato pubblicato proprio recentemente, lo scorso 28 febbraio, quindi siamo veramente contenti di avere Paolo qui con noi al telefono, perché potrà raccontarci come nasce questa sua storia. Pensate che è una storia abbastanza interessante, perché racconta di un uomo, una donna, un mistero, un grido che viene da lontano, un uomo enigmatico, una donna sola, ostinatamente orgogliosa della sua solitudine. Lui è sempre in viaggio, ma ogni volta che torna in città le fa visita. Incontri improvvisi e fugaci, fatti di poche parole e nessuna spiegazione. Di quell'uomo lei non sa nemmeno il nome né che lavoro faccia. Il mistero è parte del suo fascino. Un rapporto che non esige impegno né approfondimento. Entrambi preferiscono non farsi domande fino al giorno in cui lui le propone un weekend in una casa al mare. Non aggiungo altro, perché altrimenti la storia potrebbe essere svelata. E Paolo, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Buonasera, buonasera a voi. Siamo molto molto onorati di aver la nostra ospite al telefono, e saremo ben lieti di parlare con lei questa sera di Non mi chiedere più, che è la sua ultima fatica letteraria pubblicata da Barbera Editore. Paolo, sì. Da che spunto è nata questa storia? Ma così, come nascono le storie per me, un po' pensando alle persone che mi vengono a trovare nel mio studio, pensando alle persone che incontro nella vita, viene in mente una cosa che risponde alla domanda perché una persona cerca un'altra persona. Se non c'è amore, se non c'è sesso, se non c'è amicizia, che cosa c'è? che è una cosa che sembra un po' strana, però io era una domanda che mi facevo e ho cercato di darmi una risposta. Io credo che esista una sorta di così strana così attrazione che ogni tanto accade nella vita per una persona che non diventerà un amante, che non diventerà un amico, che non diventerà nulla di questo, ma a cui però magari si confida un pezzo importantissimo della propria vita. Recentemente al cinema ho visto un film che si conclude con una frase del tipo che anche il treno sbagliato può portare verso la buona direzione. In questo caso invece una passione sbagliata talvolta è quella giusta? Ma in questo caso non sono due persone sbagliate che si attraggono. Io credo molto a quella frase che lei ha citato. Anzi, dirò di più. Io ormai ho una certa età e quindi posso anche fare qualche piccolo bilancio, molto provvisorio. Assolutamente provvisorio. Assolutamente provvisorio. E penso di non avere mai perso in realtà un treno, perché i treni che lì per lì mi sembravano persi, quindi mi davano rammarico, ovvero le sconfitte della vita, secondo me alla fine, se uno ci guarda con un tempo giusto che deve intercorrere, perché lì per lì fa male, lì per lì brucia, ma dopo c'è sempre una ragione. Io penso che ci sia sempre una ragione negli errori, e anche che anche quando si sbaglia, in realtà si sbaglia una cosa che era giusta che si sbagliasse. Nel romanzo, però, o meglio in questo romanzo, lei racconta comunque di un incontro abbastanza peculiare. Non vorrei svelare molto perché altrimenti sveliamo anche l'essenza stessa del... Anche perché è breve, quindi... Esatto, si legge diciamo in un paio di pomeriggi, insomma, la lettura è scorre via veloce, veramente poi la lettura, la sua scrittura è veramente appassionante, riconosco di averlo letto velocemente anche perché volevo arrivare alla fine per capire per l'appunto le dinamiche che univano e fanno incontrare i due protagonisti, quindi... Volevo fare una domanda che probabilmente in tanti le hanno già chiesto. Lei racconta di un'attrazione, ma allora alla base, nella sua esperienza proprio di psichiatra e nella sua esperienza di scrittore, come riesce a traslare in parole, come riesce ad andare al di là delle storie che le sono state raccontate? Ma io credo di dover ringraziare tutte le persone, dal primo all'ultimo, che sono venute da me a raccontare i propri dolori, le proprie esistenze, le proprie sogni, le proprie frustrazioni, perché è un grande privilegio. E quindi lo dico senza retorica, lo dico con grande consapevolezza. E il minimo che posso fare è trarre da queste tante storie qualche metafora e vedere che cosa c'è tra quegli uomini e quelle donne che li accomuna in qualche modo, non per trarre una morale, perché non è il mio mestiere, però per vedere se esistano in quelle storie qualche cosa che ci rappresenta, che rappresenta lei, voi, me, perché sennò che senso ha vivere? Si vive sempre una vita degli altri e questa è la cosa più bella, non si vive da soli, non siamo monadi, la nostra vita è già la vita di un altro. Perché c'è qualcuno che ci ascolta, che ci guarda, che ci giudica, che ci ama, che ci detesta. Anche se questo, io credo che valga anche per, non so, ecco, per i monaci, anche per quelli che si ritirano. Io penso che ci sia sempre qualche cosa che riguarda l'altro da te. E questo credo che sia il mio mestiere. quello di ascoltare tutto e poi trarre qualche cosa che torno a dire ci riguarda, ci appassiona, o lì, come spero accada alla lettura di questo racconto, mi sbalestra, forse ci terrorizza perfino, perché non è una storia, ecco, questo lo possiamo dire, non è una storia così edulcorata, esatto, è una storia dura, ma a me piacciono le storie dure, così come, perché io faccio un mestiere duro, psicoterapeuta, sì. Non è dare carezze al prossimo, no. È un mestiere duro per persone dure. Dure non vuol dire corazzate, vuol dire la necessaria solida severità che la vita ci richiede in certi momenti. E allora le faccio una domanda, ma gliela faccio, prego, leggendo un pezzettino del libro. Gli amici rimangono solo se fai una vita regolare, se hai un briciolo di famiglia, un lavoro da cui torni alle 5 di pomeriggio, ti fai una doccia e prepari la cena per i ragazzi. La maggior parte della gente vuole uno specchio che rifletta un'immagine simile a quella che vuole per sé. Me la commenta, per favore, visto che mi sono letto tutto l'elogio dell'amicizia. Ma sia, guardi, spero che sia una frase commovente, nel senso di moving, come direbbero gli inglesi. Quando vedi lo squallore, lo puoi vedere in un supermercato, lo puoi vedere in una strada, ecco, non è per giudicarlo, ma è per capire quanto tu sei lontano da quello squallore o quanto sei vicino a quello squallore. E allora, ecco, io ho messo dentro quella frase un timore che mi guarda, me lo chiedo innanzitutto io, ma io sono così diverso da quel mondo prefabbricato, io sono così originale, sono così migliore, me lo chiedo, però ho bisogno di scriverlo, perché sennò mi racconto un'altra storia, chissà di contentino, perché anch'io ho bisogno di andare a sereno. Tra l'altro poi questa è una storia di due esistenze tormentate che si incontrano inconsciamente dai demoni del proprio passato. Magari vogliamo aggiungere un elemento su queste due persone che si incontrano, come si incontra l'altro e perché decidiamo di aprirci con una persona piuttosto che con un'altra, quali sono a suo avviso le dinamiche che muovono questi incontri? Ma guardi, faccio un esempio che ovviamente c'entra con quel racconto. Tutto ti aspetteresti da quell'uomo e da quella donna fuorché di parlare di un bambino, tutto ti aspetti fuorché pensare che quel bambino è stato violato, e la violazione di quel bambino / bambina riguarda entrambi, e quella violazione è stata rimossa, è stata cacciata via per anni, per nella vita di queste due persone, non ne avrebbero mai voluto parlare, non si riconoscono nemmeno in quel dolore, in quel martirio, però quel martirio li accomuna, e questo è lo svelamento di qualche cosa che non è, no? È come quando uno incontra in un treno, in una spiaggia, in qualsiasi posto, una persona che magari non ti dice nulla, poi però accenna ad una parola sola, che è un po' come la psicoterapia è fatta di parole, no? Alcune vanno via come ruscelli placidi e non lasciano grandi tracce, poi improvvisamente da quel ruscello esce una trofa meravigliosa che è una parola, che ti imbarazza, che ti commuove, che ti fa del male, che riconosci una sola parola, che però magari ti cambia anche la vita, una parola, non una frase, una parola. E io credo questo. C'era qualcuno, esatto. A tutto questo. C'era qualcuno che parlava della memoria dell'acqua, quindi mi sembra che questo possa, sì, in un certo senso anche ricollegarsi. Sì, sì, esatto, certo, sì, certo. Guardi, io ho in mente una parola che poi anche lì viene in qualche modo sfiorata, che è la parola dignità. A volte in un contesto di una vita solo nominare la parola dignità è sconvolgente. Per molti che ci stanno ascoltando magari pensano che io sono un pazzo, un visionario. Non direi. A parte che se fossi un visionario sarei contento di esserlo. amo molto i visionari, non trovo che sia un senso. Però voglio dire, ci sono, magari hai passato gli ultimi 20 anni della tua vita a mettere sotto il tappeto la dignità. E poi c'è un signore che in maniera molto, con grande improntitudine, te la nomina, te la tira fuori, no? Esce da quel centro misurato e forse anche un po' ipocrita, c'è nella nostra vita, e questa parola eccentrica fuori da quel centro magari ha il potere di sconvolgerti. E questa sera, come avrete potuto ascoltare, cari amiche e cari amici, la parola in musica e in letteratura è stata la protagonista di questa nostra trasmissione. Paolo, noi la ringraziamo di essere stato con noi questa sera. Sono felice io di essere stato con voi. Ma è stato un bellissimo regalo, grazie. E ricordiamo ai nostri ascoltatori, Non mi chiedere di più, romanzo edito da Barbera Editore, potete trovarlo facilmente anche online. Paolo, in bocca al lupo e speriamo a presto. Grazie. Alla prossima. Grazie. Buonasera. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie. Insomma, finisce così, ma ancora abbiamo un minuto. Però prima che tu legga, io voglio solo ricordare che giovedì sera, due volte al mese, dalle 21 alle 22, state attenti a quei tre, perché riusciranno ad animare la vostra serata un po' più tardi di Bruxellando, perché è tra le 21 e le 22, vi assicuro che il divertimento è assicurato. Quindi continuate ad ascoltare Radio Alma e i programmi offerti da Radio Alma in lingua italiana anche due giovedì al mese con Attenti a quei tre. Il tempo ancora per le ultime birre e le ultime sigarette. Le parole finite da tempo, insulse ormai. Certe notti hanno ore brevi. Nell'alba, l'uomo pensieroso chiude la porta, nasconde la chiave sotto il vaso. La macchina arranca fra le dune. Non si voltano a guardare il mare che rischiara lieve e grigio. La sabbia ha assorbito la morte dalle loro bocche. Il breve viaggio procede lento come una processione. Finestrini abbassati, gomiti sporgenti, sguardi strabici a guardare lati opposti della strada. La salita sembra non finire, e nemmeno la pianura. La città non ha fretta di rivederli. Nemmeno loro hanno più fretta. Il sacrificio si è compiuto altrove. I cittadini si sono svegliati in una bella giornata di primavera. Quasi estate, avrebbe detto qualcuno. Il supermercato di lì a poco si sarebbe riempito di gente. Il vecchio barista aspetta il primo cliente scommettendo di conoscerlo già. E il dottore Mingherlino è pronto a salvare la sua azienda con un nuovo colloquio. Mancano soltanto loro. E nessuno se ne accorgerà. Cari amiche e cari amici, vi auguriamo un'ottima settimana. Salutiamo Marco Rosano che ha continuato la trasmissione qui in studio, e salutiamo Paolo Crepet che invece è stato nostro ospite. Vi ricordiamo di ascoltare Bruxellando martedì prossimo con due ospiti straordinari, Renzo Rossellini e Gianfranco Rosi. Mitico. Ciao. Ciao.